Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Nicoletta Capolino entrò nello studio del marito già abbigliata, con uno strano cappellone piumato di feltro sui bellissimi capelli corvini. Florida, snella e procacissima, ardente negli occhi e nelle labbra, spirava dalle segrete sapienti cure della persona un profumo voluttuoso, inebriante. Era quello un momento drammatico, d'intermezzo alla commedia che marito e moglie rappresentavano da 2 anni, ogni giorno, anche nell'intimità delle pareti domestiche, l'una di fronte all'altro, compiacendosi reciprocamente della loro finezza e della loro bravura. Sapevano bene, l'una e l'altra, che non sarebbero mai riusciti a ingannarsi, e non tentavano nemmeno. Che lo facessero per puro amore dell'arte non si poteva dire, perché odiavano entrambi in segreto la necessità di quelle loro finzioni. Ma se volevano vivere insieme, senza scandalo per gli altri, senza troppo disgusto per sé, riconoscevano di non poterne fare a meno. Ed eccoli dunque, premurosi a vestire, o meglio a mascherare, di garbata e graziosa menzogna quel loro odio, a trattar la menzogna come un mesto e caro esercizio di carità reciproca, che si manifestava in un impegno, in una gara di compitezze ammirevoli, per cui alla fine marito e moglie avevano acquistato non solo una stima affettuosa del loro merito, ma anche una sincera gratitudine l'uno per l'altra. E quasi si amavano davvero. Grazio, non vado via tranquilla, disse ella entrando come imbronciata di un supposto inganno che la addolorava e costernava. Giurami che non vai a batterti questa mattina. Oddio, lelle, ma se t'ho detto che vado a Sicoliana, rispose Capolino levando le mani per posargliele lievemente sulle braccia. Dove faccio che io casa? Tranquilla, cara, il duello è stato rimandato alla fine delle elezioni. Debbo crederci proprio, insistette lei, mentre stentava ad abbottonarsi il guanto con l'altra mano già inguantata. Capolino volentieri avrebbe risposto a quell'insistenza con uno sbuffo. Invece sorrise, si accostò premuroso, le prese la mano per abbottonarle lui quel guanto e vi si indugiò come un innamorato. Nicoletta non aveva alcun dubbio che il marito andava a battersi quella mattina, ma non doveva saperlo per potersi divertire. Quante e quant'altre cose non doveva allo stesso modo sapere per poter essere così gaia e amante della vita. Ci riusciva spesso a forza di volontà, non già a non saperle, che non le sarebbe stato possibile, ma a fare proprio come se non le sapesse. Di nascosto, quando ne aveva fino alla gola, uno sbuffo e là sollevava l'anima sopra tutte le miserie che la avevano oppressa sempre, fin dalla nascita. Non doveva sapere, ad esempio, che la madre le aveva fatto morire, se non proprio di veleno, come qualcuno in paese aveva malignato, certo però di crepacuore il padre, per unirsi in seconde nozze con colui che la chiamava Zio Salesio, antico scritturale del Banco Spoto. Aveva appena 5 anni quando il padre le era morto, eppure lo ricordava bene, tanto che la madre non aveva potuto mai persuaderla a chiamar babbo quel suo secondo marito, molto più giovane di lei. Non era cattivo, no, zio Salesio, ma fatuo e vano come la stessa vanità. Nicoletta Capolino sentiva che avrebbe potuto essere buona in fondo. E veramente buona le pareva d'essersi dimostrata in certi momenti della sua vita, ma che intanto un perfido destino non aveva voluto permetterle d'essere tale. Cattiva per forza doveva essere, tutto falso in lei, dentro e fuori e intorno. E una lotta segreta, continua, per vincer l'afa del disgusto, per non sentir l'impiccio della maschera, quantunque già sul volto le fosse divenuta fina come la stessa pelle. Ma aveva sulla fronte un cerro di capelli svoltato, ribelle Nicoletta Capolino, e temeva in certe ore che così l'anima, qualche giorno, le si sarebbe svoltata in petto contro la soffocazione di tanti e tanti anni. Per ora il marito andava a battersi e lei a festa. E per non vedere e per non esser veduta da troppa gente, ordinò al cocchiere di lasciarla via Atenea e di prendere per la strada esterna di Santa Lucia sotto la città. Ma non si curava più da un pezzo di ciò che la gente pensava nel vederla nella carrozza del Salvo. Era ormai cosa risaputa. Del resto, anche qua, le apparenze, in certo qual modo, erano salvate dalla parentela che Capolino aveva avuto con il Salvo e dall'ufficio che la rappresentava presso la figlia di Don Flaminio. L'audacia aveva sfidato la malignità e, se non vinta del tutto, l'aveva costretta a tacere e a far di cappello in pubblico, a spettegolare solo in privato ed anche con una certa filosofica indulgenza. Perché la filosofia ha questo di buono, che alla fine dà sempre ragione a chi, comunque, riesca a imporsi. Villa Salvo era situata in alto, aerea, e dominava il viale tagliato sulla collina dal lato meridionale. Vi si saliva per ampie scalee che superavano l'altezza con agevoli fughe. A ogni ripiano, sui pilastrini, erano quattro statue d'arcigna bruttezza, che certo non facevano buona accoglienza ai visitatori. Si godeva però dallassù la vista incantevole dell'intera campagna, tutta pianura e con valli, e del mare lontano. Prima di salire al piano superiore della villa, Nicoletta corse spedita allo studio del Salvo a pian terreno, ma s'arrestò ad un tratto sulla soglia, vedendo che egli non era solo. «Avanti, avanti!» disse inchinandosi Flaminio Salvo, che stava in piedi davanti alla scrivania, a cui era seduto un giovine intento a scrivere, Aurelio Costa. «Ma scusa se...» cominciò a dire Nicoletta, guardando il Costa che si levava da sedere. «No, ma non lo dica!» la interruppe il Salvo, lisciandosi le basette con un sorriso freddo, a cui lo sguardo lento degli occhi sotto le grosse palpebre dava un'espressione di lieve ironia. «Andava avanti, stavo qui a chiacchierare col mio ingegnere.» Aurelio Costa, con gli occhi bassi, senza scostarsi dalla scrivania, chinò lievemente il capo. Era ben messo, senza ombra di ricercatezza, composto e altero nella maschia bellezza, cui l'insolito abito cittadino di fresca fattura faceva forse apparire un po' rude. «Sarà pronta Adelaide?» domandò Nicoletta al Salvo, dopo aver osservato il giovane, e risposto con un lieve sorriso all'inchino sostenuto di lui. «Ecco, un momento!» rispose il Salvo. «Segga, segga! Donna Lellè! Io vado e torno. Credo che Adelaide sia pronta.» E s'avviò per uscire. «Ma sarà meglio che venga anche io?» gli gridò dietro Nicoletta. «No, ma perché?» disse il Salvo, voltandosi sulla soglia. «Vieni giù subito, Adelaide!» E uscì. Nicoletta non volle sedere. Girò un po', dimenandosi capricciosamente per l'ampia sala, addobbata con sobria ricchezza. Aurelio, rimasto in piedi, non sapeva se dovesse o no rimettersi a sedere. Temeva di commettere un atto indelicato, ma, d'altra parte, era urtato dal pensiero che, per il capriccio di colei, dovesse star lì come un servitore in attesa. E come una padrona, veramente, ella era lì. Ma a qual prezzo? E dire che lui aveva sognato tanti anni di farla sua, quella donna. Era anche lui lì, al servizio del Salvo, come lei, come Capolino, come tutti. ma se ella fosse stata sua moglie, il Salvo non avrebbe certamente osato neppure di pensare che avrebbe potuto servirsene per i suoi senili allettamenti. Là, tra due vecchi, si trovava ella, ora, con la sua florida bellezza voluttuosa, contaminata. Ne godeva? Ostentava di fronte a lui quella sfacciata padronanza? Godeva di quel lusso? Degli onori che le si rendevano per l'onore perduto? Ma sì, anche deputato sarebbe stato tra poco suo marito, e lei moglie di un deputato. Con lui, invece, che sarebbe stata, seppur fosse riuscita a vincere l'orrore, l'orrore, di unirsi a uno di così bassi natali? L'onestà, la gioventù, l'amore puro e santo? Ah, ma valevano di più per lei le piume ondeggianti e il velo dell'ampio cappello. Stanco e sdegnato, sedette. «Ah, bravo, sì!» esclamò allora Nicoletta, voltandosi a guardarlo. «Mi scusi tanto se non gliel'ho detto. Distratta, pensavo!» E si appressò. Venne a porsi innanzi alla scrivania, di fronte a lui, con una mossa repentina, risoluta e provocante della persona. «Lei è stata qui, ingegnere?» «Forse, non so», le rispose egli, guardando la sua volta con fermezza. «Attendiamo per ora a tracciare un disegno. Se si attua...» Nicoletta strizzò un po' gli occhi e portò un dito alle labbra, stette un po' assorta e riprese con altro tono di voce. «Eppure io mi ricordo bene di lei, sa? Di quando lei era qua, ancora studente, giovanottino. Sì, me ne ricordo benissimo ora.» Aurelio fece un violento sforzo su se stesso per resistere al turbamento, all'urto che le parole di lei, dette con così calma e improntitudine, gli cagionavano. Che voleva da lui quella donna? Perché gli parlava così? Era veramente difficile a indovinare, e per Aurelio, anzi, impossibile. L'improvviso, inopinato incontro con lui, l'impressione che ne aveva ricevuta, i pensieri che coi feminei sguardi furtivi gli aveva letti in fronte dopo il suo irrompere con tanta libertà nello studio del Salvo, e poi, durante quell'attesa, l'avvilimento segreto per la sua condizione, che in fondo non poteva non sentire davanti a quel giovine che un giorno l'aveva chiesta in moglie onestamente per amore. Il pensiero che egli ora sarebbe rimasto lì, nella casa del Salvo, e che Dianella lo amava in segreto, e che presto egli, con la vicinanza, avrebbe potuto accorgersene. E che tra poco, dunque, ostinandosi Dianella fino a vincere l'opposizione del padre, lei avrebbe potuto soffrir l'onta d'assistere al fidanzamento di colui con la figlia del suo padrone, avevano messo in subbuglio l'anima di Nicoletta Capolino. «Non me ne voglia male», disse allora ella con triste dolcezza, piegando da un lato la testa, «poiché lei rimarrà qui e noi avremo occasione di vederci spesso, cogliamo questa intanto per togliere con franchezza un'ombra fra noi che ci adoggerebbe. Io passo per sventata, sarò tale, non lo nego, ma non posso soffrir le simulazioni, le dissimulazioni di ogni sorta, per nessuna ragione, i pensieri coperti. Vogliamo essere buoni amici?» E gli tese, così dicendo, la bella mano inanellata, e dopo la stretta gliela lasciò ancora un poco per aggiungere: «Tanto, creda, non glielo dico per civetteria, né per avere un complimento. Lei ancora ha la sua bella libertà, nessuna perdita e nessun rimpianto. Buoni amici?» E sentendo l'ansito affannoso e il fruscio della veste di seta di donna Adelaide Salvo, tornò a stringergli la mano in fretta, apposta, come per dar senso e sapore di un patto segreto a quella conversazione. Non se l'aspettava, intanto, il vecchio cascinone di Valsania, nel desolato abbandono in cui da tanti anni viveva, tutti quei fronzoli e quei pennacchi, tutti quei paramenti sfarzosi che i tappezzieri gli appendevano dalla mattina. pareva se li guardasse addosso, triste e un po' stupito, con gli occhi delle sue finestre. «Ah, che bel tappeto, nuovo fiammante, sulla vecchia scala rustica che aveva due stanghe verdi per ringhiera. Che scorta di laurie e di bambù, su per i gradini e poi sul pianerottolo. E che drappi damascati ai davanzali e delle finestre e al terrazzo di levante per nascondere la ringhiera arrugginita. Che tappeto anche lì, su quel terrazzo, e sedie di giunco e tavolini e vasi di fiori. Ora vi rizzavano una tenda a padiglione, il ricevimento e la presentazione degli sposi avrebbero avuto luogo lì, poiché non s'era potuta strappare a Mauro Mortara la chiave del camerone. Dall'alba egli era andato a rintanarsi, non si sapeva dove. Don Cosmo, in maniche di camicia, sbuffava, smaniava per la camera in disordine, mentre donna Sara Alaimo, ancora spettinata, cercava dentro un'arca antica di faggio, stretta e lunga come una bara, un abito decente per farlo comparire nella solenne cerimonia. Spirava da quell'arca, piena d'abiti vecchi, un denso, acutissimo odore di canfora. Don Cosmo fece appena in tempo a indossare la Napoleona. Uno degli uomini di guardia, ne erano venuti otto alla spicciola da Colimbetra e in gran tenuta, entrò di corsa ad annunciare l'arrivo del monsignore. Don Cosmo tornò a sbuffare, volle alzar le braccia per esprimere il fastidio e gli cavava l'annunzio. Ma non poté. La Napoleona? Giusta, attallata, ti venda, lo prevenne donna Sara. «Le venda un corno!» gridò Don Cosmo. «Me sega le ascelle! Me strozza!» e scappò via. Sperava che arrivasse per ultimo il vescovo e che non toccasse a lui d'accoglierlo e di tenergli compagnia fino all'arrivo degli altri ospiti. Gli seccavano anche questi. Gli seccava enormemente tutta quella pagliacciata pomposa, ma più di tutto e di tutti la vista del monsignor vescovo, di quell'altro rappresentante di un mondo da cui egli si era allontanato dopo tanto strazio, urtato specialmente dall'ipocrisia di tanti altri suoi compagni, i quali, pur assaliti in segreto dai suoi stessi dubbi, vi erano rimasti. E monsignor Montoro era appunto fra questi. Ora si faceva baciar la mano colui e aveva la cura suprema delle anime di un'intera diocesi. Le illusioni incoscienti, le finzioni spontanee e necessarie dell'anima, Don Cosmo sì, le scusava e le commiserava e compativa, ma le finzioni coscienti no, segnatamente in quell'ufficio supremo, in quel ministero della vita e della morte. «Oh bello, oh bene», diceva intanto monsignore, molle, molle, smontato dalla vettura e guardando la campagna intorno, tra Dianella Salvo e il suo segretario, giovane prete, smilzo e pallidissimo, dagli occhi profondi e intelligenti. «Col mare vicino? Ah, bello! Ah, bene! E la valle? E la valle? E chi?» si interruppe, vedendo Don Cosmo scender la scala dalla vecchia villa infronzolata. «Oh, eccolo! Ah, caro mio Don Cosmo, monsignore di veritissimo», disse questi inchinandosi goffamente. «Caro, caro», ripeté monsignore, quasi abbracciandolo e battendogli una mano sulla spalla. «Da quante mai anni non ci vediamo più? Vecchi, eh? Vecchi? Tu? Ci daremo del tuo spero come un tempo noi due, eh? Tu devi avere, se non sbaglio, qualche annetto più di me». «Forse sì», sospirò Don Cosmo, «ma chi li conta più, mondoro mio? So che ne ho molti dietro e pochi davanti. Quelli mi pesano e questi mi paiono enormemente lunghi. Non so altro». Daniela Salvo, guardando Don Cosmo, aveva atteggiato involontariamente il volto di riso nel vedergli addosso quell'antica Napoleona che gli serrava le spalle e le braccia. Sorrideva sotto il naso anche il giovine e pallido prete, e gli otto uomini di guardia, postati e impalati a piè della scala, miravano il fratello del principe loro padrone a quel solenne ricevimento, tra afflitti e mortificati. «Ecco il principe!» esclamò donna Sara, che guardava verso il viale dalla ringhiera del terrazzo. Monsignore si alzò con Dianella e Don Cosmo per vederlo arrivare. Questi accorse per abbracciarlo appena smontato dalla vettura. Cavalcavano ai due lati Capitan Sciaralla e un altro guardato a manica in alta tenuta. Il rosso acceso dei calzoni spiccava gaiamente tra il verde degli alberi e sotto l'azzurro del cielo. La vettura era chiusa. Il segretario Lisi Preola sedeva dirimpetto al principe. Donna Sara si ritrasse dal terrazzo, ove rimasero soltanto Monsignore, Dianella Salvo e il segretario ad assistere dalla ringhiera all'abbraccio che i due fratelli si sarebbero scambiato. Don Ippolito Laurentano smontò dalla vettura con giovanile agilità. Vestiva da mattina e aveva in capo un cappello a Havana dalle ampie tese. Baciò il fratello e subito si trasse indietro a osservarlo. «Cosmo, come te sei congiato?» gli domandò sorridendo. «Ma no, ma vai subito a levarti codesto monumento dalle spalle!» Don Cosmo si guardò addosso la Napoleona, di cui non si ricordava più, quantunque se ne sentisse segar di ascelle. «Sì, infatti», disse, «sento un certo odore». «Odore? Ma tu appesti, caro!» esclamò Don Ippolito. «Senti de campo lontano un miglio!» E sorrise a Monsignore e si levò il cappello per salutare Dianella Salvo nel terrazzo. Poi s'avviò per la scala. Si mossero tutti dal terrazzo e tutti, tranne Monsignore e il suo segretario, che rimasero sul pianerottolo innanzi alla porta, scesero a piè della scala quando i sonagli d'argento annunziarono per il viale la vettura di Flaminio Salvo. Don Ippolito si fece avanti per aiutare le signore a smontare e sorprese la sposa nell'atto di sbuffare un «Eccoci qua!» con le braccia protese verso il cielo della carrozza, come per spiccicarsene. Finse di non accorgersi di quell'atto sguaiato, facendo più profondo l'inchino. Poi le baciò la mano. La baciò a donna Nicoletta Capolino e strinse vigorosamente quella di Flaminio Salvo, mentre le due signore abbracciavano festosamente Dianella e Don Cosmo restava impacciato, non sapendo se e come farsi avanti. Capitan Sciaralla, sulla giumenta bianca, pareva una statua a piede della scala, innanzi al plotone sull'attenti. «Vestiti proprio bene codesti militari», disse donna Adelaide al principe, tirandosi su con la mano libera la veste per non incespicarne la salita. «Graziosi davvero! Paiono pupi di zucchero!» Poi, prima di arrivare al pianerottolo in cima alle scale, «Monsignore eccellentissimo! Credevo che vostra eccellenza dovesse arrivare col comodo suo, ed eccolo qua invece, puntuale!» Il vescovo sorrise, tese la mano perché donna Adelaide baciasse l'anello e le disse: «Per avere la gioia di vedervi così, abbraccio del principe e darvi la benvenuta, donna Adelaide, nelle case dei Laurentano». «Ma che degnazione, grazie, grazie, proprio gentile, vostra eccellenza», rispose donna Adelaide, entrando nella villa a un invito del principe. Entrò Monsignore e poi donna Nicoletta e poi Dianella e il Salvo e il segretario del vescovo e anche Don Cosmo. Il principe volle entrare per ultimo. Quando si fece nel terrazzo, sorprese i dolci occhi di Dianella che lo aspettavano, indagatori. Istintivamente rispose a quello sguardo con un lievissimo sorriso. «Bell'uomo!» disse piano a Dianella Nicoletta Capolino. «Che avete da dire voi due là?» saltò a domandare a questo punto donna Adelaide. «Ridete da noi! Ridono di me e da voi, caro principe! Ragazzacci! Ma non c'è che fare, siamo qua per questo, eh? Oggi è la nostra giornata, come la fiera! Flaminio, figlio mio, non mi mangiare con gli occhi! Ma fammi coraggio, piuttosto! Io ti dico sì, sempre di sì, ma lasciami stare allegra, eh? Dico sciocchezze perché sono commossa. Andiamo, Nicoletta, con licenza vostra, principe, io vado a salutare la mia povera cognata». E andò seguita dalla nipote e da Nicoletta. Subito il Salvo per rimediare all'impressione sgradevole di quella scappata della sorella nell'animo del principe, spiegò con aria misteriosa che la signora Capolino ignorava affatto che il marito, forse in quel momento stesso, si batteva e che lo credeva invece a Siculiana per il giro elettorale. «Preghiamo il Dio che avvenga bene», sospirò Monsignore. «Ma non c'è da dubitarne», sorrise il Salvo. «Un avversario ridicolo, che le ha prese da tutti, sempre, corto, grassoccio e miope forte. Il vostro Capolino, invece...» «Ho visto da lontano, per lo stradone, appena uscito dalla villa», disse Don Ippolito, «le due carrozze che venivano da Colimbetra». «Eh già», soggiunse il Salvo, «a quest'ora, certamente...» E si interruppe. Tacquero tutti per un istante, sopraffatti, senza volerlo, dalla costernazione, e volarono con il pensiero alla villa lontana, dove in quel momento avveniva lo scontro. Lì era ben diversa realtà. Due uomini a fronte, due sciabole nude, guizzanti nell'aria. Qua, in mezzo al silenzio della campagna, gli addobbi sfarzosi, improvvisati per una festa che ora, stranamente, appariva a tutti quasi fuori luogo.